Con Adele Orioli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti per parlare del lancio del rapporto 2018 sulla libertà di pensiero nel mondo. Adele, ben trovata. Presentiamo Ben trovati, grazie. questo rapporto? Presentiamo questo rapporto, sì, il rapporto 2018 dell'International Humanist and Ethical Union sulla libertà di pensiero nel mondo, è la settima edizione, anche se contiene quest'anno numerose novità, intanto perché sono state mappate tutte le legislazioni mondiali, quindi tutti i paesi, e anche perché sono stati introdotti nuovi criteri, quindi oltre al rating e la qualificazione che si avevano negli anni scorsi, adesso abbiamo anche un sistema complesso di intersezione dei dati che ci permette anche di effettuare una vera e propria classifica dei paesi cosiddetti paradisi terrestri per gli atei, paradisi terrestri nel senso semplicemente che gli atei, i non credenti, gli agnostici hanno semplicemente gli stessi diritti di tutti, e ci permette anche di stilare la classifica dei 10 peggiori. L'Italia purtroppo non è ovviamente tra i 10 migliori, non è tra i 10 peggiori, ma non sta molto bene, sta all'incirca in 170esima posizione tra lo Zimbabwe e Burkina Faso. Quali sono i criteri di selezione? I criteri di selezione sono molto semplici, innanzitutto il livello di rispetto dei diritti umani. Noi abbiamo quest'anno che si festeggiano i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che ovviamente include il diritto di libertà religiosa, che include il diritto di non averne alcuna di religione. E invece ci sono moltissimi paesi nel mondo in cui è obbligatorio dichiarare la propria religione, in alcuni paesi è obbligatorio dichiarare l'unica religione del paese stesso. Le Maldive è un caso su tutti, ad esempio. E poi c'è l'analisi delle legislazioni anche per quanto riguarda in tema di matrimonio, in tema di adozioni e per andare poi, queste sulle cose più sofisticate, per andare poi sulle cose più dirette, ci sono le legislazioni come quelle ad esempio dell'Arabia Saudita che parificano direttamente gli atei ai terroristi e legislazioni che per ateismo e blasfemia impongono carcere, tortura e pena di morte. La libertà di pensiero è determinata soprattutto dalla religione. La libertà di pensiero è la libertà di coscienza. Sì. Quando la nostra libertà di coscienza incontra il fenomeno religioso, ovviamente si parla di libertà di religione, che include anche però la libertà di non averne alcuna, quindi la libertà dalla religione. Quali sono i paesi più virtuosi? I paesi più virtuosi, beh, una qualche sorpresa, non è senso, abbastanza normale trovarcene tra i primi 10, Belgio, Olanda o Francia. Un po' di sorpresa per noi occidentali abituati a pensare di avere il monopolio della laicità, trovarci ad esempio paesi come Giappone o Taiwan. E quali sono le violazioni più numerose rispetto alla tematica? Abbiamo innanzitutto un diffuso sistema di privilegi all'autorità religiosa. Ora, dove il diritto non è riconosciuto a tutti è per l'appunto un privilegio. Un privilegio a qualcuno equivale a una discriminazione nei confronti di qualcun altro. Diciamo che tendenzialmente nel mondo, non solo nei paesi teocratici o nelle democrazie liberali come vengono chiamate adesso, ma in generale nel mondo vi è una disciplina legale che tendenzialmente favorisce il sacro. In alcuni paesi ogni espressione del sacro, in altri l'unica espressione del sacro, cioè quella della religione del paese, la religione dominante del paese, ma in generale comunque la discriminazione maggiore è proprio data al fatto che al valore religioso, al valore rituale, al valore cultuale è dato una cosiddetta marcia in più, mentre non viene quasi mai riconosciuto il valore dell'individuo, anche se ateo o non credente. Qual è l'attività dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti? Le nostre attività sono molteplici. Innanzitutto ci battiamo attivamente affinché cessino le discriminazioni anche nel nostro paese nei confronti dei non credenti. Quindi abbiamo uno sportello di assistenza legale ovviamente gratuito, patrociniamo cause anche importanti di cui si è sentito parlare, il crocefisso è solo una di queste, ma anche altre molto più piccole ma altrettanto significative, come ad esempio per l'obbligo di istituire l'insegnamento alternativo alla religione nelle scuole. Facciamo cultura, abbiamo una nostra casa editrice che pubblica libri che non vengono editi da altre case editrici o inediti proprio sulle tematiche laico-razionaliste. Abbiamo una sede nazionale che ospita la prima biblioteca italiana con oltre 5.000 volumi a tematica laico-razionalista, che tra l'altro abbiamo inaugurato nella nostra sede proprio oggi. Ci occupiamo di divulgazione del pensiero scientifico attraverso ad esempio i nostri Darwin Day, sono le celebrazioni del compleanno di Darwin che in febbraio teniamo nei nostri circoli territoriali. Questo è molto altro ancora. Restando in Italia, quali sono annualmente, riferito chiaramente al 2018, le cause più importanti? Discriminazione, beh, come dico sempre io, le discriminazioni nei confronti dei non credenti in Italia partono da prima ancora della culla e arrivano praticamente fino alla bara. Volendo andare in ordine alfabetico, andiamo dalla A di aborto alla V di vilipendio. Le cose più eclatanti sono sicuramente il sistema di tassazione dell'8 per 1000, che oltre ad avere il sistema ingiusto della ridistribuzione delle quote inespresse non permette ai cittadini atei e agnostici di devolvere una quota obbligatoria delle tasse a un'associazione, quantomeno a una realtà che rispecchi la loro cosmogonia. Abbiamo enormi problemi nelle scuole, perché nonostante sia lo stesso concordato a definire facoltativa la materia dell'insegnamento di religione cattolica, la maggior parte delle scuole non attiva i corsi alternativi o addirittura fa pressioni molto pesanti sui genitori perché faccia frequentare i bambini a scuola. Ma pensiamo anche qui, siamo nella capitale, a Roma, la nostra giunta non è particolarmente nota per un gran numero di atti, anzi viene spesso tacciata di indolenza, eppure nel primo anno la giunta Raggi è riuscita a bandire un concorso per assumere nello specifico 50 insegnanti di religione a tempo indeterminato per le scuole comunali. Ecco, tutto questo tipo di attenzioni non esistono nei confronti delle cosmogonie ateagnostiche. In chiusura lasciamo i riferimenti web per saperne di più sul rapporto 2018? Assolutamente sì, potete trovare tutto sul nostro sito www.uaar.it o altrimenti anche sul sito dell'IHEU, quindi IHEU, International Human and Scientific Union. Il report si chiama Freedom of Thought Report del 2018. È un lavoro veramente poderoso di oltre 800 pagine, ma già se andate su internet, sul sito dell'IHEU, potete vedere immediatamente la mappa fatta con i colori del semaforo. Il nostro mondo vira tra il rosso e il giallo, di verde c'è ben poco. Ricordiamo il rapporto 2018 sulla libertà di pensiero nel mondo presentato a Roma. Un saluto e un ringraziamento ad Adele Orioli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Adele, un saluto e a risentirci presto. A presto e grazie mille.